Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben trovate a Nessun Luogo è Lontano. Una buona giornata da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da Valeria Coffaro, che sta in redazione, e Fabio Cantadori alla parte tecnica. Allora, di che cosa parliamo oggi? Whatever it takes, or even if it costs our life, it's our job and we like it and we are here to devote for the freedom of the press. La libertà della stampa, the freedom of the press, la voce che avete sentito è quella di Mustafa Haji Abdinur, giovane cronista di AP che ho intervistato a Mogadiscio pochi mesi fa. Mogadiscio, la capitale somala, dove si sta consumando una tragedia, dove però ci sono dei cronisti che ci permettono di sapere quello che sta accadendo. E abbiamo deciso di iniziare così la puntata di oggi, omaggiando una delle tante voci che ci arrivano dalla capitale somala. Oggi allora, professione reporter di guerra, perché raccontare la guerra? Esiste un modo giusto per raccontarla? E come è cambiato questo mestiere negli anni? Quali sono i rischi e quale è l'innegabile fascino? E allora, esiste il modo giusto per raccontarla? Cioè ci si immerge fino al collo in quella che è la tragedia della guerra, oppure si tiene un distacco? Torniamo ancora a Mogadiscio con la voce di Mustafa, che appunto solo pochi mesi fa mi ha parlato così. If we are the foreign media representatives here in Mogadiscio, per noi che siamo rappresentanti della stampa estera qui a Mogadiscio, il primo ostacolo è che gli estremisti islamici considerano i media occidentali delle spie e li ritengono nemici dell'Islam. Pensano che lo scopo della stampa occidentale sia solo quello di fare propaganda. Quindi se stai coprendo una notizia e intervisti alcuni di loro, non appena dici che lavori per una testata internazionale si insospettiscono e iniziano a chiederti perché fai certe domande, cosa vuoi cercare di scoprire. Ti trattano come una spia. Allora vi ricordo le coordinate per interagire con noi: SMS 349-238-6666 se avete domande, suggestioni o commenti. Ci trovate la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano, oppure potete scrivere email a nessunluogo@radio24.it. Questa è la drammatica situazione che raccontava Mustafa, che vive e lavora in un fronte perenne, un fronte che dura 20 anni. Ascoltiamo ancora la sua voce da Mogadiscio. It's uncountable really, because it's a part of the non si può dire quante sono le minacce che riceviamo ogni giorno, noi e i nostri familiari, da parte di persone che conosciamo o che non conosciamo. Ci cercano nelle conferenze stampa e chiedono di vedere le foto che facciamo o cosa stiamo scrivendo. Oppure riceviamo telefonate intimidatorie in cui ci chiedono cosa facciamo e perché. Alle volte ci chiedono di articoli di cui non siamo neppure a conoscenza. Ma se dici che non sai di cosa parlano, pensano che stai mentendo. Ti dicono: sappiamo cosa stai facendo, sappiamo chi sei e per chi lavori, e un giorno verrai punito per questo. You will be punished for what you do. When we are talking about the problems that Somali journalists are facing, we are not just quando parliamo dei problemi che i giornalisti somali stanno affrontando, non stiamo soltanto parlando di Al-Shabaab, ma di tutti gli attori coinvolti nel conflitto in Somalia. Per esempio, il governo somalo ci obbliga a consegnare le nostre telecamere, i nostri cellulari. Ma qualche volta il fatto che stai riprendendo una certa cosa è solo una scusa per derubarti. Ci accusano di stare dalla parte dei terroristi e minacciano di farci arrestare. E insomma, il reporter di guerra, come avete sentito dalle parole forti di Mustafa, è una figura in bilico, perché è in bilico tra due fronti, tra i due eserciti che si combattono, ma anche in bilico tra la vita e la morte. E allora qual è il più grande rischio per un reporter di guerra? È la morte? È cadere sul fronte? O quali altri rischi si nascondono dietro questo lavoro incredibile? Buongiorno Ettore Mo. Buongiorno. Allora, Ettore Mo non ha bisogno di grandi presentazioni, storico, grandissimo, inviato del Corriere della Sera. Ti giro questa prima domanda: esiste, qual è il rischio più grande per chi copre un conflitto, per chi cerca di raccontare la guerra? Il rischio più grande è sempre quello di non poter raccontare quello per cui sei andato in quel paese, quindi il rischio di fallire nel tuo compito. Dopo certamente c'è il rischio in alcune zone di lasciarci la pelle, ecco. Quando tu parti per andare a coprire, a raccontare una guerra, hai già un'idea di quello che andrai a trovare? Assolutamente, quindi mi preparo, mi organizzo, vado in archivio, trovo tutte le vicende che si riferiscono a quel determinato paese, a quella determinata situazione. Per cui quando parto per andare, mettiamo in Afghanistan, so chi devo contattare per avere un'idea più precisa sulla realtà attuale, ecco. Ma hai già, come dire, una tesi precostituita? Quello che volevo dire è, a volte succede che arrivi in un posto e l'idea che avevi si smonta, si sgretola, perché trovi delle cose nuove, delle fonti nuove, delle notizie che non ti aspettavi. Ma questa è la fortuna di qualsiasi giornalista inviato. Cioè, tu parti, chiaramente ti fai un'idea su un paese consultando tutti i documenti che hai a disposizione, poi arrivi e vedi che la situazione è completamente diversa. Quindi si tratta di capire un po' tutte quelle convinzioni che ti sei fatto e aderire alla realtà e raccontare la realtà così com'è. Ma no, se non ti piacciono, certamente non piace a nessuno i terroristi, eccetera, ma se vedi che se scopri che ci sono delle ragioni profonde per cui si ribellano, diciamo, al potere costituito, allora te ne fai una ragione e cerchi di individuare quali sono i motivi che hanno scatenato questa ribellione. Come fa a scegliere un reporter quello, la guerra o il conflitto o il territorio che andrà a coprire, a raccontare? Tu come hai scelto l'Afghanistan e perché? Ma guarda, io non è che l'ho scelto io, perché io mi occupavo all'inizio di cose, diciamo, più leggere, mi occupavo di spettacoli, pensa un po'. A un certo punto il direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bella, mi ha detto: lo sai che Khomeini è tornato a Teheran? E io lo guardo e dico: sì, certo, leggo i giornali. E allora senti, ce l'hai il passaporto? Sì, c'ho il passaporto. Va bene, preparati a partire per terra. Io lo guardo sbigottito e dico: ma Franco, hai bevuto? Io mi occupavo della scala del piccolo teatro, questo mi manda in terra. E lui mi dice: no, non ho bevuto, e ricordati che io butto sempre nell'acqua solo quelli che so che sanno nuotare. Vai, non ti voglio più vedere qua. Questo è stato il mio inizio. Mi ha cacciato a Teheran. Sono stato là due settimane per il rientro di Khomeini. Quando sono tornato mi ha detto: adesso dimentica la scala, il piccolo teatro, e vai in Afghanistan. E sono andato in Afghanistan. E insomma lì, come dire, ti sei tolto il salvagente, i braccioli, la cuffia. Lì non è che stavi iniziando a nuotare, insomma, lì già hai iniziato a fare le vasche come si deve, nuotavi come si deve. C'è stata una volta, Ettore, che hai detto: ma chi me l'ha fatto fare? Perché sono qui? Era arrivata l'Armata Rossa in Afghanistan alla fine del 79, inizi dell'80, e dopo ho seguito la vicenda afghana per tanti anni, ecco. Ma dicevo, c'è stata una volta in cui ti sei trovato in una situazione pericolosa, critica, in cui hai detto: ma perché sono qua? Chi me l'ha fatto fare? L'ho trovato quando sono andato con un collega afghano, giovane, 24 anni, Mitzwair, e siamo andati Gulbuddin e Matyar, che è quel sanguinario che sta tuttora con Osama Bin Laden al confine tra Pakistan e Afghanistan, e volevamo intervistarlo. Io volevo chiedergli perché da questa collina bombardava sulla sua gente, sull'Afghanistan. Sì. Allora siamo andati da Massoud, che era il ministro della difesa allora, e io ho detto: guarda, io voglio andare in quella località per vedere Egmatiar e per chiedere perché fa questo. E lui mi ha detto: guarda, io non ti posso dare la scorta, non ti posso dare, vai a tuo rischio e pericolo. E così col giovane collega siamo andati, abbiamo intervistato Egmatiar in sede separata. Al ritorno hanno fermato la jeep su cui viaggiavo con Mizwai, questo collega afghano, ci hanno fatto scendere tutti e due. In quel momento ho pensato: è finita. Invece non è me che volevano Mizwai. L'hanno preso, l'hanno portato via e mi ha costretto a tornare a Kabul. Quando sono tornato a Kabul ho saputo che il povero Mizwai è stato fucilato, fatto fuori. Questa è stata un'esperienza dove ho veramente potuto dire: ma chi me l'ha fatto fare? Sì, ho pensato a questo. Poi naturalmente ho pensato al mio grande amico Mizwai. DMZ, not long ago. Ricordo una volta vicino alla zona demilitarizzata in Vietnam. Improvvisamente erano appena passate le 5. C'è stata una raffica di razzi e persone che erano vive fino a pochi attimi prima ad un tratto erano morte. E lì realizzi che potevi essere tu. insomma, la morte che uno va a raccontare, perché quando si va a raccontare la guerra si racconta anche la morte che ti può sfiorare. Ettore Mo, qual è stata l'intervista della tua vita? Hai citato Massoud prima. Sì, ho citato Massoud perché l'ho conosciuto, sai, lui era un tipo molto restio, non dava confidenza ai giornalisti, ma insomma l'ho conosciuto nel suo panchir, e lui si è come un po' affezionato, comunque ultimamente potevo andare a vederlo quando arrivavo lì, mi diceva vieni mio fratello italiano, e così è nata questa, non posso chiamare amicizia, non troppo sussiego, ma insomma è stata veramente un'esperienza molto importante, perché ho visto veramente un eroe. Lui è morto da eroe, ha sofferto da eroe, era anche un poeta, un uomo colto, per cui era un uomo per cui ho avuto una grandissima ammirazione, che serbo tuttora, infatti a casa mia c'è il suo ritratto. E fra l'altro, insomma, il leone del panchir fu poi ucciso due giorni prima dell'attacco alle Torri Gemelle. Lui era considerato un po' il Che Guevara lì nella zona, insomma, era un intellettuale, era un guerriero, era uno che abbracciava un Islam moderato, insomma, era una figura carismatica. Che prima vi ho fatto sentire, a proposito di Carezza della morte, la testimonianza di Larry Burrows, che era un fotogiornalista inglese che aveva raccontato il Vietnam, e ci è morto poi nel 71 perché l'elicottero su cui viaggiava fu colpito e precipitò. Sentite ancora che cosa dice della guerra Larry Burrows. C'è una storia in particolare in cui 17 elicotteri furono abbattuti e ci furono un mucchio di morti e feriti. Noi provammo a soccorrere uno dei piloti che era stato colpito. Aveva due fori di proiettile e morì poco dopo. Fu un momento molto toccante. Spesso mi sono chiesto se fosse un mio diritto quello di far soldi sul dolore altrui, ma poi ho trovato una giustificazione pensando che se posso contribuire anche un poco alla comprensione di ciò che altri stanno passando, allora una ragione per farlo esiste. Allora, così dice Larry Burrows, una ragione per fare questo mestiere esiste. Ettore Mo, perché? Perché si racconta la guerra? Perché si va a rischiare in prima persona? Guarda, io ti racconto, ecco, della mia visita a Grozny in Cecenia. Ero con Milena Gabanelli e volevamo raccontare questa guerra di cui non si sapeva granché, né delle origini né delle ragioni che l'avevano provocata, quindi andiamo a vederla. Eravamo lì e veramente a grande rischio, perché ci spostavamo da una parte all'altra, da un settore all'altro della città, e continuavano a cadere i missili, eccetera. E a un certo punto ci siamo fermati con Milena Gabanelli e, sai, nessuno dei due sapeva se usciremo vivi oppure no. E abbiamo detto, vabbè, il nostro compito è questo, di raccontare questa paura che noi abbiamo anche noi di morire, come tanti sono morti, anche i nostri colleghi, e di farlo nella maniera possibile, con le parole più caste possibili. Ecco, e dove, quando si parla della scrittura, ecco, di stare aderente alla realtà, di non usare ridondanze retoriche, di raccontare i fatti con la semplicità massima possibile, aderendo alla realtà che tu stai vedendo e così contemplando. Sì. Esiste, Ettore, un aspetto però anche lirico in qualche modo del racconto di guerra, no? Esiste un'epica comunque, una celebrazione, forse anche a volte il rischio di appoggiarsi a questa cosa. Tu dicevi bisogna essere sintetici, succinti, descrivere i fatti, non mettere dentro troppe emozioni, no? Però c'è questo rischio in qualche modo di abbandonarsi invece a questa elegia comunque dell'epica guerresca. Sì, questo rischio c'è, e allora io consiglio ai giovani giornalisti che vogliono fare l'inviato di guerra di leggersi Omaggio alla Catalogna di Orwell, George Orwell, il quale racconta questa grande tragica vicenda nel 39 a Barcellona, ecco, dove il dissidio era non solo contro i franchisti, ma tra le diverse ali della resistenza. Per cui c'erano i filo comunisti, i filo sovietici, e c'erano gli altri, c'erano gente di sinistra ma che non aderiva alle teorie di Mosca, in sostanza. Ecco, lì esisteva questo. Ecco, lui, Orwell, racconta questa cosa in una maniera esemplare. Sì. Per esempio, il primo capitolo si sentono le due trincee dei franchisti e degli inglesi, sono vicinissime, e allora nasce il dialogo tra queste due trincee. Dalla parte franchista dice: voi cosa avete mangiato stamattina al breakfast? Dall'altra parte dicono: noi abbiamo mangiato caviale, abbiamo mangiato il pane imburrato, abbiamo bevuto dell'ottimo vino di Jerez della Frontera, e voi, dall'altra parte rispondo, noi niente come voi. Una guerra combattuta anche. Una guerra combattuta che c'era anche spazio per l'ironia, per il sarcasmo, e in fondo rivela anche che non c'era questa ostilità di fondo tra le due fazioni, hai capito? Sì. Erano due spagnoli che sono trovati a un certo punto incappati in una parzialità o nell'altra. Praticamente perché si trovavano lì in quel momento. Allora, insomma, anche Orwell ci aiuta un po' in questa educazione sentimentale che ci propone oggi Ettore Mo, per chi giovani cronisti che innamorati di questo mestiere, insomma, vogliono ripercorrere le sue orme. Ettore, grazie infinite per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Nessun luogo è lontano. Allora, io ho una teoria. La teoria è che in guerra raccontare le storie è diverso. Cioè, qualsiasi storia inserita in quel drammatico contesto del conflitto, di quel dolore incredibile, diventa una storia potente, diventa una storia magnifica, diventa una storia universale. Quando sei lì e intervisti quel soldato e vedi quel soldato che spara, o vedi un profugo e fotografi quella madre piangente, allora tutta quella situazione diventa iperbolica, si carica di tensione, di un'emozione fortissima che vivi anche tu in prima persona, e quindi c'è questo fascino dell'epica, del grande racconto da raccontare, a cui tu non puoi sottrarti. Giro questa domanda a chi di storie così ne ha vissute tante, fotografando. Franco Pagetti, buongiorno. Buongiorno. Franco Pagetti, fotografo italiano dell'agenzia Seven, conosce Baghdad come le sue tasche perché c'è stato tanto, tantissimo. Troppo, Franco? No, troppo poco. Ti manca Baghdad? Sì, mi manca molto. Ci ho passato sei anni importanti per la mia carriera, per me, soprattutto per me stesso. E questi giorni, nei giorni scorsi, in cui ci sono articoli che ripercorrono la guerra in Iraq, mi manca non essere lì. Quando dicevo del fascino, no? dell'epica comunque, della storia a cui insomma il reporter, il fotografo, il cameraman, il giornalista non riesce a sottrarti, tu quanto l'hai vissuta in quei 6 o 8 anni a Baghdad? Scusami, non ricordo. Dal 2003 fino alla fine del 2008, per cui sono 6 anni. 6 anni. Quante volte hai vissuto questa attrazione irresistibile, fortissima, verso anche il dolore? Beh, l'ho vissuto tutte le volte che dovevo ripartire. Non ho mai avuto tentennamenti. Io lavoravo per Time, e tutte le volte che mi si chiedeva di ripartire, la prima domanda era: te la senti? Per cui era una scelta, una mia scelta, non ero una forzatura di nessun tipo, ero consapevole di quello che andavo incontro e quindi ero cosciente di quello che mi aspettava, anche perché mentre ero a casa a riposarmi, tra parentesi a riposarmi, continuavo ad essere in contatto con le persone con cui lavoravo a Baghdad o in Iraq più in generale, e sentivo tutto quello che succedeva, e addirittura a volte fremevo del fatto che mi mancassero 2 settimane, 1 settimana. Mi sembrava di essere condannato a morte, che scrive, che fa le croci sul muro per il giorno che gli manca al patibolo. Invece sì. Premeva tornare, andare a fare il biglietto dell'aereo e ripartire. Sì. Allora, Franco Pagetti ha una storia sua incredibilmente strana, ha avuto un percorso ondivago, perché faceva tutt'altra fotografia. Prima faceva il fotografo di moda, celebrato e apprezzato, era negli Stati Uniti, e poi a un certo punto questo impulso irresistibile per sporcarsi le mani nelle guerre, e diventa fotografo di guerra. Do intanto il mio buongiorno a Sandro Iovine, direttore del Fotografo. Buongiorno Sandro. Buongiorno. Sandro è un critico fotografico, ai noi, cioè ci uccide, mi ci mette un po' in mezzo, insomma, essendo anch'io fotografo, è uno di quelli che ci bastona, eccetera. Sandro, la fotografia di guerra a che cosa serve? A niente, fondamentalmente. che, insomma, spieghiamola, perché così suona come una provocazione. E lo è assolutamente, è assolutamente una provocazione, e si rivolge più che altro agli addetti ai lavori in qualche modo. C'è la maggior parte delle persone che si avvicinano alla fotografia di reportage, soprattutto i giovani, lo fanno armati di meravigliose intenzioni e della voglia di cambiare il mondo. Una delle motivazioni principali per cui molti affrontano la fotografia di reportage, o meglio sarebbe definirla fotogiornalismo, e in particolare quella di guerra, è la sensazione che siamo ancora intorno alla fine degli anni 60 e che la fotografia possa riuscire a cambiare le cose. E gli esempi ci sono stati sicuramente, c'è stato negli anni 50 uno Smith con Life, prima si parlava della guerra di Corea, della guerra del Vietnam. Nella guerra del Vietnam effettivamente la diffusione di un certo tipo di immagini ha contribuito a creare quella che era un'opinione pubblica contraria a un certo punto, da un certo punto in poi alla guerra, perché hanno visto di cosa si parlava. Ma di fatto il fotogiornalismo stesso nasce con la guerra. Se guardiamo un po' indietro alle origini, 1855, guerra di Crimea, cosa succede? Succede che su Times cominciano a comparire una serie di reportage scritti di un giornalista che si chiamava William Russell, che comincia a raccontare che la guerra di Crimea non è la passeggiata di salute che vorrebbe venisse intesa il governo inglese, ma si muore. E queste cose cominciano a turbare l'opinione pubblica, che perde il suo, diciamo, chiamiamolo appoggio nei confronti della guerra. Quindi la Corte propone di utilizzare questo strumento, che è nato relativamente da poco, che è la fotografia, per far vedere che le cose sono migliori di quanto non ci racconti il signor Russell. Mandano giù un paio di ufficiali, non riescono a ottenere lo scopo, si rivolgono alla Royal Society of Photography e a Roger Fenton, e con il contributo del dello Stato, con il contributo di un, chiamiamolo, editore, tal Thomas Agnew, che si proponeva di vendere le foto della guerra, mandano giù questo fotografo a dimostrare in qualche modo che la guerra non era così atroce. Ovviamente ci sono una serie di limiti tecnici che non è che il caso di andare ad approfondire. Le immagini che vengono fatte mostrano una guerra senza cadaveri, una specie, veramente torniamo al concetto della passeggiata di salute, il club degli ufficiali davanti alle tende accampati, c'è un'unica foto di campo di battaglia ma non ci sono cadaveri. Quindi, insomma, una visione edulcorata, una visione politica della guerra, una visione che volta a creare quello che in termini tecnici si chiama coinvolgimento al potere delle masse. Franco Pagetti, le tue foto dall'Iraq hanno aiutato, hanno fatto capire meglio alla gente quello che accadeva? Cioè, il tuo scopo alla fine qual è? Il mio scopo è quello di documentare, non so, in un certo modo di essere gli occhi di qualcuno che in Iraq non ci può andare o non ci vuole andare o che non ci può andare di base. E se hanno cambiato il corso degli eventi non credo proprio, sarebbe, però spero che perlomeno abbiano portato delle persone a riflettere su quello che può essere più in generale la guerra e quello che è stata la guerra in Iraq. Secondo me la fotografia, ed è una delle ragioni per cui in genere i fotografi non sono molto amati dagli eserciti o dai combattenti in campo, sì, per la semplice ragione che documentano, lasciano la libera interpretazione a chi guarda le immagini di trarre delle conclusioni. Si citava prima la guerra del Vietnam, che è stata cambiata da alcune immagini, la guerra in Corea, ma anche la Bosnia, il Ruanda. Una cosa che mi disse un grande fotografo, Anthony Kratochfield, sulle fotografie, è che della guerra del Vietnam si ricordano tutti le foto di Larry Barrow, tutti si ricordano la bambina bruciata dal napalm o l'ufficiale vietnamita che punta la pistola contro il Vietcong. Sì. E nessuno si ricorda i pezzi del New York Times piuttosto che di altri giornali. La fotografia, Stalin, che era uno che se ne intendeva di propaganda, diceva che una fotografia è peggio di mille parole. Il potere, quindi, la forza delle immagini che hanno una vivida immediatezza, hanno una forza innegabile, al di là del potere della penna, ma le immagini sono pericolose per due motivi, perché possono essere usate e strumentalizzate, ma sono pericolose anche per chi le fa, perché come giustamente diceva Franco Paggetti, alla fine il fotografo o anche il cameraman devono sempre fare un passo in più. Devono sempre arrivare alla front line, devono sempre azzardare quel mezzo centimetro in più, lo sanno bene tanti nostri colleghi, ricordo su tutti Raffaele Ciriello che ha perso la vita in Palestina proprio perché sporgendosi voleva documentare gli scontri tra israeliani e palestinesi, una raffica da un carro armato israeliano gli ha fatto perdere la vita. E poi però c'è anche un altro problema. Il problema è che alla fine sì, fotografi e camera sono quelli che fanno un passo in più, però c'è una grossa differenza fra i due. Vediamo se siete d'accordo, lo dico ai miei ospiti. Il fotografo deve selezionare, cioè il fotografo va lì e deve in qualche modo chiudere, no? in questo riquadro magico tutta una realtà che è composita, quindi fa un'operazione di scelta che di una responsabilità enorme. Franco, cosa pensi di questo? Sì, certo, ma anche il cameraman fa una scelta, perché se noi guardiamo i servizi dei vari telegiornali, non importa di quale paese, e togliamo l'audio, ci si accorge che le immagini non hanno nessun legame tra di loro. L'unica cosa che le tiene insieme è il commento che racconta questa serie cronologica di montaggio e nulla più. La fotografia è lo stesso. Se io ho come incarico di andare a fotografare i bambini affamati del Pakistan perché ci sono le alluvioni, e arrivo in un villaggio e la storia al quale sono stato assegnato è quella, e vado a cercare quelli, certo, e poi non faccio vedere magari il figlio del gerarca o di non so chi che invece è bello paffuto. Per cui certo che c'è una selezione, ma c'è la selezione da parte di chi scrive per le cose che racconta, e c'è una selezione da parte di chi deve invece usare le immagini. La base di tutto deve essere sempre l'etica e l'onestà, e non montare delle situazioni che non esistono, cercare di essere più una cosa antica come il mondo, cercare di essere i più onesti possibile. Sandro Iovine, la fotografia, in particolare la fotografia di guerra, è una rappresentazione della realtà, cioè è una fedele copia di quello che accade a un continente di distanza da me, e quindi io posso per un attimo percepirla, intuirla? Ma io, prima di risponderti, vorrei dire che ho apprezzato molto la scelta di vocaboli di Franco Paggetti, che ha parlato di onestà, e l'onestà credo che sia effettivamente la matrice fondamentale di questo tipo di professione, perché poi è impossibile che chiunque di noi, che sia giornalista di penna o fotografo o videooperatore o qualunque altra forma riusciamo a immaginare di racconto giornalistico, non può essere per definizione imparziale, può illudersi di esserlo, ma non può esserlo per un problema banalmente di vissuto, di ciò che è riuscito a sapere nella fase di documentazione cui accennava prima Ettore Mo, nella fase di approccio con i fatti, con gli avvenimenti. La cosa che io dico sempre quando si affrontano le prime lezioni di fotogiornalismo è che la verità non esiste, o perlomeno ne esistono tante versioni quanti sono i presenti, sperando che nessuno sia schizofrenico. Nessun luogo è lontano. Allora, se la verità non esiste, allora il fotografo, il reporter di guerra, il fotogiornalista che cosa va a rincorrere quando è lì in mezzo ai proiettili, quando è lì sulla linea del fronte, quando cerca di documentare le atrocità che accadono nel mondo? Ascoltate un passaggio di un film, si chiama Hotel Rwanda, già che veniva citato proprio da Franco Paggetti, è il dialogo tra il direttore dell'Hotel delle Mille Colline di Kigali e un reporter. il direttore dice: fai bene a riprendere quello che succede qui, almeno il mondo conoscerà le atrocità che stiamo passando e interverrà in nostro aiuto. Il reporter dice: non credo che interverranno, ma ascoltate. Come fanno a non intervenire? Stanno morendo a centinaia di migliaia. Quando lo vedranno in TV diranno: oh mio Dio, è orribile, e continueranno a mangiare. Allora, Franco Paggetti, quando tu scatti una foto, quando si vedono i Marines con cui hai lavorato per anni, le forze speciali, i morti, i feriti a Baghdad, quando si vede un paese lacerato, tu alla fine come ti immagini la reazione del lettore che sfoglia il Time, vede le tue foto, e cosa fa? Continua a mangiare, si volta dall'altra parte? Beh, innanzitutto quando io sto scattando, quando sto lavorando, sono in una situazione di lavoro, non penso al dopo, penso alla mia foto, penso a come, nonostante tutto, a come comporla, a cercare di dargli un linguaggio. E poi ho l'illusione, forse per l'età che ho, io ho 60 anni, sono cresciuto, la colpa è da attribuire anche ai pezzi che leggevo di, quando facevo moda, leggevo i pezzi di Ettore Mo, o le foto di Larry Barro, o di McCallin, sono loro i responsabili di questo mio passaggio. Sì. E spero sempre, mi illudo, forse, ripeto, è un'illusione, una chimera, ma mi illudo che qualcuno, vedendo queste immagini, si renda conto di quale atrocità l'uomo sia capace di commettere contro degli altri esseri viventi, in un pianeta che dovrebbe essere basato sull'equilibrio sociale, politico e ora è tanto di moda anche ecologico. Sì. Non dimentichiamo che molte delle guerre, la matrice di molte guerre è l'economia che spinge a confrontarsi. Franco, tu, seguendo appunto i Marines in tanti blitz, in tante operazioni, c'è stato quel momento in cui hai detto, la stessa domanda che ho fatto a Ettore Mo, ma chi me l'ha fatto fare? Una volta Robert Capa ha scritto: ma no, non è poi tanto dura, ma quando senti che sei dentro una pioggia di proiettili e scopri che te la sei fatta addosso e che devi cambiarti le brache, beh, allora sì, quella è una tragedia. Te la sei mai fatta addosso, Franco? Spesso, anche recentemente in Afghanistan. Adesso sono stato 3 mesi in Afghanistan da dicembre a fine febbraio. Oh. E ho pagato il prezzo alla mia arroganza, avendo fatto 6 anni di RAG, dicevo posso andare ovunque, posso fare la qualunque. E invece con l'82esima brigata aviotrasportata mi hanno mandato sulle montagne del Kunar, sono montagne a 2500 metri di altezza, non ci sono sentieri, per cui la marcia è spezzata continuamente e facevo fatica, certe volte mi gridavano corri, avevo la responsabilità di non rallentare la marcia perché venivamo presi a schioppettate, e quando mi dicevano corri io dicevo no, non ce la faccio, e poi invece trovavo le forze per correre, ma avevo paura. Certo che hai paura e secondo me devi avere paura per non mettere a repentaglio la vita degli altri che sono con te, che possono essere i fixer, che possono essere gli interpreti, gli autisti, e devi avere paura per salvaguardare te stesso. Io voglio tornare, non mi va di fare l'eroe, cioè l'Italia è già piena di santi, eroi, ne abbiamo a dozzine. Allora, grazie Franco, hai parlato di Afghanistan. Fausto Biloslavo, buongiorno. Buongiorno. Ecco uno che l'Afghanistan lo conosce molto, molto bene. Fausto, tu hai vissuto un po' un grande cambiamento del giornalismo di guerra, perché tu una volta, ai tempi dell'Albatros, quando partisti con i tuoi compagni d'avventura con le Super 8, potevi stare 6 mesi con i Mujahideen, 6 mesi con i russi, insomma vivevi il fronte da entrambi i lati. Adesso non si può più. Purtroppo si stava meglio quando si stava peggio, come si suol dire, nel senso che ai tempi della guerra fredda, ovvero sia il grande solco è stato purtroppo l'11 settembre, il reportage che io chiamavo il reportage perfetto, come la tempesta perfetta, era quello che si faceva da tutte e due le parti. Io sono riuscito ad andare anche con i talebani, sempre quando erano al potere in Afghanistan, avevano conquistato gran parte dell'Afghanistan, sempre prima dell'11 settembre, E appunto era proprio questo, trovarsi un giorno magari come mi è capitato in Africa, nelle Filippine, con i guerriglieri e il giorno dopo con i governativi che davano la caccia ai guerriglieri. Quindi cercare un attimo di riportare, di spiegare e raccontare un po' tutti i due lati della barricata. Sì. Adesso di fatto è impossibile, l'11 settembre ha segnato una svolta, un solco, purtroppo siamo visti non più come testimoni, anche magari con un tempo è successo da utilizzare e così via, siamo visti come nemici a seconda del passaporto che abbiamo in tasca. Sì. Quindi certi reportage sono reportage kamikaze, quelli con i sorti in Iraq, con i talebani sono diventati sempre più difficili, se non addirittura impossibili. Li chiamo kamikaze perché se ti va bene vieni rapito, se ti va male ti tagliano la testa. E quindi insomma cambia anche il ruolo del giornalista, che è sempre l'imbilico, che tenta insomma comunque di raccontare. C'è un grandissimo rischio, io credo, nel raccontare la guerra, che è il logoramento delle parole e delle immagini, cioè c'è una retorica sull'immagine, sì, sulla parola della guerra, no? Sì, sì, c'è una terribile retorica, devo dirlo onestamente, e io ne sono stato corresponsabile, un po' forse anche inevitabile. Per esempio ricordo sempre quando passai 2 mesi e mezzo nel 2001 prima del crollo dei talebani in Afghanistan, proprio a seguire i bombardamenti americani, l'avanzata dei mujahideen del nord anti-talebani che solo grazie ai B-52 sono arrivati a Kabul, avevo coniato questo termine un po' antico, un po' diverso, di tagliagole, no? Perché avevano, sì, massacrato Maria Grazia Scutuli, perché ne avevano combinate di tutti i colori, e poi ho scoperto che è entrato addirittura nei dizionari, insomma è stato rispolverato. Ecco, cioè, talvolta si usano dei termini anche ripetendoli all'infinito e diventano, insomma, come dire, la verità. Ma qual è la verità? Come stanno veramente le cose? Fino a che punto sono terroristi, talebani, insorti, eccetera? Fino a che punto non lo sono? Insomma, fino a che punto siamo buoni noi e fino a che punto talvolta magari facciamo degli errori, sì, e siamo cattivi. E insomma, il rischio, molto attenti, Il rischio qual è? Di ridurre storie diverse e raccontarle sempre con uno slogan, con la stessa parola, appunto, ad esempio tagliagole, e quindi di ridurre una realtà che comunque è composita, ha mille sfumature, ha mille chiariscuri, ridurli a una cosa sola, e quindi non racconti più tante storie, ne racconti una sola. Grazie Fausto Biloslavo per essere stato con noi. Torno al volo da Franco Pagetti. Franco, sei in partenza, sì o no? Per dove? Per l'Afghanistan. Appunto. Vai a coprire una storia in particolare? Hai già in mente una cosa, un progetto? Sì, sì. Vado nella provincia di Helmand, che è la provincia la cui capitale è Kandahar, dove pare che a settembre ricominci quella che ormai da 6 mesi a questa parte viene chiamata la nuova offensiva per la riconquista dell'Afghanistan da parte dell'esercito americano. E allora grazie a Franco Pagetti, un grandissimo in bocca al lupo, buona giornata, buon lavoro. E vado invece a Sandro Iovine, telegrafico. Il fotogiornalismo è morto? Se non è morto, sta molto male. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E allora al volo facciamo ruotare il mappamondo, guardiamo un po' che cosa sta accadendo in queste ore. Ban Ki-moon, segretario dell'ONU, lancia un'inchiesta sulle violenze collettive nel Nord Kivu, di cui avevamo dato notizia proprio ieri. Il segretario generale dell'ONU si è detto scandalizzato. Pare che in questo villaggio, nel nord del Kivu, almeno 180 donne siano state vittime di violenza da parte delle milizie Mai Mai e delle forze democratiche di liberazione del Ruanda. E poi in Turchia, dove un'esplosione si è verificata ieri sera in un gasdotto che porta appunto gas naturale dall'Iran alla Turchia, e le autorità ritengono si tratti ancora una volta di un attentato messo a segno dai ribelli curdi del PKK, il partito separatista. Se non fosse che proprio il PKK aveva segnato un cessate il fuoco unilaterale, che aveva peraltro insomma insospettito e messo in subbuglio il mondo politico turco, non è stato ancora rivendicato. L'esplosione ha provocato un violento incendio, ma non ha fatto né feriti né vittime. Giornata di sangue in Iraq, abbiamo parlato di Baghdad, è salito almeno 11 morti il bilancio dell'attentato suicida di questa mattina contro una stazione di polizia nel quartiere Al-Qaira di Baghdad. e i feriti. 11 morti, i feriti sono ben 34, mentre notizia proprio dell'ultima ora, un altro attentato a Kut ha fatto altri 26 morti. Insomma, pare che la ritirata dei Marines non stia facendo voltare pagina al paese. Infine, una dichiarazione del miliardario Soros, che dice: la Francia ponga fine all'espulsione di massa dei Rom e l'Unione Europea vari un ampio, efficace piano di integrazione a fronte della vastità delle questioni che riguardano questa minoranza. Sono queste le richieste del finanziere ungherese naturalizzato americano, che interviene così, insomma, in questa querelle che sta facendo discutere non solo l'Unione Europea ma anche l'Italia. Non mi resta che ringraziare tutti i miei ospiti, ringraziare Valeria Coffari in redazione, Fabio Cantadori alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani ore 13:15, non prima di avervi ricordato che nessun luogo è lontano.